si è chiusa con una vittoria a tappeto dei repubblicani alla Camera. I democratici sono riusciti a difendere la maggioranza al Senato, ma comunque sia gli equilibri a Washington cambiano. Barack Obama ha perso il referendum sul suo operato. By any means, in Washington State right now, Patty Murray, the incumbent Democrat with 52%, Dina Rossi, the Republican challenger with 86%. Una notte che è cominciata con gli exit polls, un po' dappertutto. Qui avete ascoltato un exit poll del Washington State, ma più i risultati arrivavano, risultati che anticipavano poi il conteggio finale, più ci si rendeva conto che i repubblicani, il giovane movimento dei Tea Parties, questi patrioti, difensori della Costituzione, di quello spirito americano che Barack Obama e i democratici, secondo la loro campagna elettorale, avrebbero distrutto in 2 anni di governo statalista, dicevo, questi nuovi volti dei repubblicani hanno vinto, hanno riconquistato ieri notte, dopo una delle più polarizzanti elezioni degli ultimi anni, il controllo della Camera. Vi dicevo che il controllo democratico del Senato è ridimensionato, però è salvo. Harry Reid, l'anziano presidente della maggioranza, ce l'ha fatta contro Sharon Angle in una delle corse chiave che vedeva schierati da una parte il vecchio establishment e dall'altra un'eroina dei Tea Parties. Ci sono stati dunque dei democratici che hanno fatto bene, che sono sopravvissuti, ma se dovessimo vedere una cartina geografica dell'America sulle elezioni, soprattutto alla Camera, ci sarebbe soprattutto il colore rosso, il colore cioè dei repubblicani.